Marco Barbazzi da New York ci porta nell'inferno di Guantanamo, quel limbo dell'isola di Cuba nel Mar dei Caraibi sul quale sventola la bandiera stelle e strisce e dove esiste il più orribile campo di prigionia dalla Seconda Guerra Mondiale, il campo di Guantanamo appunto, dove da oltre un anno più di 600 detenuti di diverse nazionalità arabe sono detenuti, un campo senza legge, detenuti senza imputazioni che non hanno mai visto un giudice e non hanno mai visto un avvocato. Tutto questo in nome della guerra al terrorismo. Ma ora e nei prossimi giorni la Corte Suprema degli Stati Uniti, stimolata da molte associazioni per la difesa dei diritti umani e da alcune associazioni di avvocati, come dire, democratici degli Stati Uniti, hanno posto delle condizioni, dei quesiti alla Corte Suprema, sapere qual è la legge, qual è il diritto di quei detenuti. Pensiamo, solamente due su 600 sono stati formalmente incriminati, ma ancora non è stata stabilita neppure la corte che li dovrà giudicare. Sarà una corte speciale, civile, militare? E se militare, perché, visto che non hanno neppure lo status di prigionieri politici, ma hanno uno status che non esiste, che è quello di terroristi, che giuridicamente è uno status appunto inesistente. In pratica 600 persone vengono sequestrate da oltre un anno nel campo di concentramento, è terribile dire questa espressione, ma veramente non se ne riesce a trovare un'altra, sull'isola di Guantanamo. Persino due cittadini con passaporto americano, uno che ha suscitato molta emozione negli Stati Uniti, José Padilla, è stato privato dei suoi diritti, l'unico cittadino americano che è stato privato dei diritti costituzionali americani, una situazione davvero insostenibile, a Guantanamo, terra senza legge. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.